Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao Belli, Radio DJ. DJ io Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tuo fa l'americano, americano. Americano, sienta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll. Al presidente Obama vorrei dire con grande forza che quel messaggio che ha caratterizzato The Force Message, Yes We Can, e che tutti noi ricordiamo come un messaggio di possibilità e potenzialità, oggi vale anche per noi in Italia. Ok Napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Il Mediterraneo è per noi il posto, il luogo che i romani chiamavano Mare Nostrum, Our Sea. Non credo che la traduzione sia la traduzione più adatta al Mare Nostrum latino, ma credo, e questo è molto importante, che sia nostro il dolore di quelle giovani donne. E meno male che sei corretto a un certo punto. Our sea, non penso sia la traduzione esatta. Io comincio subito col dire, caro Parenzo, che a me, al di là delle piccole cose di traffico e i dettagli, le cose glamour su chi c'era, chi non c'era, com'era vestito, non era vestito, me ne fotte nulla di questa roba, di questa visita. Gli elogi di Obama a Renzi, la bellezza sono di vedere scontati. Quest'uomo, il capo del mondo, che atterra nel nostro paese, non me ne frega a Roma niente. Ne ammira le bellezze, un grande spot anche per portare turismo probabilmente. Ma quando mai? Gli elogi, io non mi ricordo una visita di un capo di Stato in Italia che abbia contato qualcosa, tranne quella del presidente degli Stati Uniti e di altri a Napoli nel G8 di un tempo, G8, G7, non mi ricordo cos'era, quando Berlusconi ricevette la visita. Lei ricorderà però la tenda del signor Gheddafi, ad esempio. Sì, certo, quello sì, certo. Gheddafi ne ricorderà. Ora possiamo dire che un grande passo in avanti è stato fatto e non c'è più la tenda di quel maledetto dittatore, quella tenda lì a Villa Borghese, e c'è un signore civile dell'Occidente democratico che arriva con un grandissimo aereo, con 40 macchine di scorta, la CIA, i servizi segreti americani, e non quello lì con quei cammelli, quella tenda lì dentro Villa Borghese, arriva con l'aereo Air Force One Block. Perché secondo te, bellissimo. Perché secondo te non è l'Occidente, l'America, Renzi non avrebbe accolto Renzi non avrebbe accolto il signor Gheddafi. Purtroppo sì. Smorzo gli entusiasmi dicendo subito che avrebbe accolto anche quel sultano lì con questa pagliacciata che fece delle, come si chiama, le Amazzoni. E no, intanto è arrivata la civiltà. E intanto oggi io ti mando Albano che esalta Putin, signor Albano. Ma anche lui Albano è stato prezionato. Viene pagato per fare anche concerti lui in Russia, perché non ci tutti può. È proibito. No, è proibito. Però Albano, un po' di decenza. Numero uno, Albano. Tu ami la Russia e i russi? Sì. Cosa bella pensi gente di questa esclusione di Putin dal G8? Io non la vedo una cosa giusta. Perché? Semplicemente perché è un uomo che ha seminato una buona dose di democrazia, intanto in Russia. Putin ha seminato democrazia. È il committente. Poi dice, perché devi dire committente insultando Albano? No, anche insultando. No, dire committente tu dici non che è un paga insulto. E esalta Putin perché viene, scusami, pagato dalla se Russia. Uno va a cantare in Russia, che non è esattamente un paese civile, deve parlare bene di quel paese, altrimenti ti arrestano. Se tu vai negli Stati Uniti a cantare, non sei obbligato a dire che Obama è un grande presidente, se vai in Russia sei obbligato a farlo. Ma non è vero. Piccola differenza. Poi dice che in Russia c'è libertà. Ecco. E poi è contro le famose Pussy Riot. Sentiamolo contro le Pussy Riot. Mi dicevi che insomma anche queste Pussy secondo te non... Ma ti pare logico che tre, con tanti spazi, tanti night, tante strade libere, tante spiagge libere, debbono andare proprio nella chiesa, nella cattedrale, a spogliarsi nude e danzare, a ballare? È una provocazione artistica. E lo fa in chiesa. Capisco che uno quando è ateo non ci crede, però probabilmente... bisogna avere rispetto anche del, cioè non è un luogo per fare quello che hanno fatto. Tu vuoi vivere alla moda? No, caro il signor Albano, bisogna avere rispetto per quelle ragazze che mettono i loro corpi per portare una battaglia di libertà, non come te che vai in Russia e dici che addirittura Putin ha portato la democrazia, che, come dire, lisci il pelo al tuo committente, al signor Vladimir Putin, ex KGB, perché se vai in America non sei obbligato a dire che Obama è un bravo presidente, invece vai lì e dici no, le Pussy Riot. Senti, dice anche che è giusto il carcere, 2 anni, giusto il carcere. Quando? Signor Albano, Alfano. Cioè, tu ce l'avresti lasciata in carcere, secondo me? Io, 2 anni vanno bene, insomma. 2 anni di carcere? 2 anni vanno bene. Vai. Allora, io l'altro giorno stavo a cantare lì a Berlino, c'era il Festival del Cinema, e secondo te dove erano queste pussi? Erano anche lì, con le tette di fuori, a scrivere. Ma cosa chiedono? Probabilmente di venire ascoltate, probabilmente loro non sono d'accordo con tanti aspetti del regime. E perché non ti fondi un partito e fai quello che devi fare? E se lo fa in Russia? È possibile fondare il partito delle Pussy Riot in Russia, ad esempio? Partito, sì. Ah, è possibile? Sì, secondo me sì. Ah, è possibile. Con il simbolo, magari due segni, è possibile, secondo te? È possibile fare un partito in Russia in cui ci sono due uomini che si baciano, ad esempio fare un partito? È possibile? Sai che si è riunito l'ufficio di presidenza di Forza Italia per la prima volta oggi? Ma esiste di presidenza? Chi c'era? Pascale, basta. No! Chi c'era? Pascale, diciamo, per decenza Berlusconi non l'ha messa. Chi è che c'era? No, c'era un gruppo di persone. Poi ci sono il gruppo A e il gruppo B, cioè quelli che hanno diritto di voto e quelli che non hanno diritto di voto, cioè quelli che sono solo, come dire, uditori, come si diceva un tempo, e gli altri invece che decidono, almeno così sembra. Quegli uditori cosa fanno? Per me resta, adesso abbiamo un ospite, però resta scolpita ormai nella pietra la frase di Vittorio Feltri l'altro giorno qui alla Zanzara, che sta facendo discutere moltissimo nei palazzi del potere. Sta facendo arrabbiare, devi dire. Signor, sì, sta facendo discutere anche arrabbiare. Il cerchio magico intorno a Berlusconi, che ricorda quello di Bossi. Secondo me ormai Berlusconi è ridotto un po' come Bossi. Vi ricordate quando aveva il cerchio magico, eccetera, che fece anche una brutta fine. Io spero che non ci siano delle analogie tra la situazione di Bossi e di Berlusconi, però il sospetto c'è, perché adesso Berlusconi vive praticamente in ostaggio del cerchio magico, e questa cosa non credo che giovi né a Berlusconi né al partito. Abbiamo con noi, se è ancora collegato, perché non lo so, qui è Gianfranco Rotondi. Sempre Rotondi. Collegato. Buonasera, come sta? Bene, benissimo. Presidente del governo Ombra. Capo del governo Ombra. Adesso diciamo la verità. Il capo del governo Ombra, in teoria, deve essere ricevuto anche dal presidente degli Stati Uniti, che è arrivato oggi in Italia. Adesso. Questo non è accaduto, adesso. Caro. Sarà noi, un indizio. Da noi non è una formula istituzionale. È il terzo governo Umbra della storia della Repubblica, dopo Occhetto, dopo Veltroni, c'è il governo Rotondi. Ma sono iniziative politiche. Anche. Berlinguer lo propose ma non lo fece. Occhetto lo fece ma non si ma sa. Rotondi, ma se non esiste nemmeno Forza Italia, che è in mano alla Pascale, come pensa che possa esistere il governo Ombra? Mi pare, ma francamente, la politica, noi dobbiamo tornare a una educazione politica tradizionale. In che senso, scusi? La politica si fa in Parlamento. Allora, un parlamentare insieme ad altri colleghi e unendo delle persone qualificate, professionisti, professori, universitari, imprenditori, artisti, formano un governo di controllo del governo reale. Ho capito, ma non se lo fila nessuno. Rotondi, questo governo qua... Ma chi se ne frega? E ha insaputa pure dei ministri qualche volta. Ma non è vero, questa è una falsità scritta dalla Stampa di Torino nel titolo, con un ottimo articolo di Mattia Feltri, e io ho avuto una delle più grandi soddisfazioni, mia come politico e loro come giornalisti, cioè quando ho protestato dicendo... Ma non lo sanno i ministri chi sono? Non se li ricorda nessuno? I ministri, nessuno era ad insaputa, tant'è che sono venuti al Consiglio, solo che la stampa aveva commissionato un articolo di cui aveva già scritto il titolo. Ma perché non è andato da Obama? Oggi non è andato manco l'ufficio di presidenza del partito. Dai, fammi spiegare che la stampa ha scritto una cazzata. L'hai già detto. Allora, la stampa, no, lo spiego. La stampa ha scritto prima il titolo, sono ministri all'insaputa loro. Eh beh, ma un po' poi l'intervista, però nell'intervista non c'era scritto perché i ministri lo sapevano. Hanno messo lo stesso titolo. Io ho protestato su Twitter e loro mi hanno chiesto scusa pubblicamente. Addirittura. Solo che la cosa che serviva, chissà chi, sì, era scrivere ministri a loro insaputa, e quindi gira ancora sulla rete questa storia. L'unico ministro che si è dimesso è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Ma che lui veramente non lo sapeva. Lui veramente non lo sapeva, aveva anche ascoltato le motivazioni. Ma quanto conta sto governo ombra? Berlusconi lo sa che c'è il governo ombra? Conta per quello che saremo in grado di proporre. Ma che proporre? Per come ci muoveremo nel paese. Sabato sono a Palermo. Mi pare chiaro che è una campagna elettorale, mica è una formula istituzionale. Si vedrà quando si andrà al voto. Scusi, perché oggi non è andato all'ufficio di presidenza? Quanti saranno convinti da Renzi e quanto saranno convinti da me? Ma non c'è uno scontro Rodondi e Renzi, su, non esiste. Che non c'è, ma perché c'era mica uno scontro tra Renzi e Berlusconi all'inizio? Beh, e io ne capisco. Andatevi a guardare le agenzie, voi che siete bravi sul serio. Senta, Rodondi, voglio capire. Non è adulazione, no, vi faccio una sfida. Andatevi a guardare le agenzie ANSA della sera in cui Renzi ha vinto le primarie da sindaco di Firenze. Però scusi un attimo. Ho dichiarato sarà premier, sarà il leader della sinistra, l'uomo nuovo della sinistra italiana. Ragazzi, con Rotondi vi dovete stare, perché io dalla terza media faccio politica. A me sembra un'idea geniale questa, ho invece, il naso di chi queste cose le vede prima. Vabbè, sono a me sembra un'ottima idea questa. Ad aver detto che Renzi avrebbe battuto tutti. Vabbè, il primo addirittura. Ma Renzi è più bravo di Berlusconi, Renzi, in alcuni aspetti, per certi aspetti? È il più bravo della sinistra, non è più bravo di Berlusconi. Sinistra. Vabbè, questo dalla sinistra è scontato. E quello ha vinto anche le primarie. Ma bravo, perché uno di noi è un democristiano, è uno che ne capisce. Uno di noi. Allora, scusi un attimo, Rotondi, no, aspetti un attimo, mi dica un attimo perché oggi non è andato a questo riunione. Mi ero dimenticato. Sì, in effetti avevo un altro impegno istituzionale, dovevo innaffiare le piante. Non mi sembra che lei abbia consideri questo nuovo organo creato da Berlusconi, insomma, credibile, o perché sbaglio? Lui è uditore solo, forse? No, avevo da innaffiare le piante. Vabbè, posto il problema. E ho concluso che andare a parlare a una riunione del mio partito è come innaffiare le piante quando piove. E perché? Perché si aggiunge acqua ad acqua quando piove, innaffi le piante e aggiungi acqua e ad acqua. E tutto. La discussione mi sembra che in quel caso, andando alla riunione, avrei aggiunto parole a parole, no? E quindi fa marcire tutto, e quando si aggiunge troppa acqua alle piante... E quindi mi sono stato a casa a innaffiare le piante e eventualmente ma mi le pare normale come è andata. Ma le pare normale che in un partito la moglie del capo di quel partito... Io sono... berlusconiano e democristiano, non sono pentito di aver difeso la DC pure quando dopo che si è sciolta, non sono pentito di aver difeso Berlusconi e di averlo fatto fino alla fine. Ora faccio un'altra scommessa, sarà coerente con le prime definizioni che le ho dato. In che modo un democristiano orgoglioso di essere stato berlusconiano può entrare in una partita politica che sarà difficilissima per chi si oppone alla sinistra? Che cosa c'è oggi? Una corte intorno a Berlusconi? Sta cerchio magico, esiste o no? Solo di testimonianza. Vabbè, io me la faccio con le mie idee, con la mia storia, quello, d'accordo, e con la mia dignità. Ma l'abbiamo capito, esiste un cerchio magico intorno a Berlusconi? Ma chi se ne frega? Ma il cerchio magico non esiste. Berlusconi fa quello che vuole da che è nato. Ma quale cerchio magico? Beh, esiste però. Fedelissimi. La Rossi e la Pascale lo tengono un po' e a distanza. Che significa? Ognuno di noi ha delle persone che aiutano, collaborano, ma mica sono loro a dare la linea. C'è una corte intorno a Berlusconi che si è ristretta. Ma anch'io quando ero ministro e non riuscivo a ricevere tutti, dicevo che la segretaria magari non mi aveva passato qualcuno. Sono innocenti bugie che anche una persona trasparente come me dice, figuriamoci. Il mio amico Berlusconi, se deve dire una cosa che dispiace Rotondi, dirà che gliel'ha detta Tizio, Caio. Ma si fa in politica, ci può stare, via. Va bene, un attimo solo, traffico. La Zanzara. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Siamo ancora a casa, Evo. Beh sì, siamo ancora qui. Sentite quello che dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serrecchiani, la quale ha paura delle telefonate che arrivano sul suo cellulare. E scoprite perché. Deborah Serracchiani. Io chiederei... Mi devo ricordare, se mi dovesse mai arrivare una telefonata col numero sconosciuto, di non parlare, muta. Lei se non è cascata nella rete come tutti? No, beh, voi dovete sapere che questo signore qui telefona ad alcuni politici facendo la voce di qualcun altro. C'è cascato più di uno e devo dire che quando ho visto che il numero non mi tornava sono stata muta come una statua di sale, non ho detto niente. Ma io non ricordo, era intanto la Serracchiani alla celebrazione del giornale delle scuole sul Messaggero Veneto. C'era pure Andro. Ah, Andro Mercucci. Sì, ma non capisco, ma noi non abbiamo mai provato a fare uno scherzo in realtà alla Serracchiani. Non credo che abbiamo mai provato. Non mi ricordo. No, che forse l'abbiamo fatti talmente tanti. Mi ricordo più. Non andiamo mi a vedere nei cassetti dossier. Salta fuori, tac. Ma che andiamo dossier? Vedere... Procura per inchiesta. Cioè, dai, dicendo. Su. 800 24 0024. Chi è questo? Ah, De Luca. Che carogna che sei. Vabbè, ho capito. Gianfranco Rotondi è con noi, premier in pect, anzi premier del governo ombra. Dai, su, ma non ci posso credere che esista un governo ombra. Però è una bella iniziativa politica. Ma cioè, sì, va quando bene, qualcuno però, fa un'iniziativa politica, sì, io, guarda, va riconosciuto. Chapeau ma perché fanno, ma, ha riattivato ma un po' di discussione. Ma lo dovrebbe fare Berlusconi, governo ombra. Non la fa e l'ha fatta Rotondi. Vabbè, bravo. Dai, meno su, male che dai. C'è un po' di dialettica interna. Perché stanno facendo fuori la Santanchè? Perché non è più nelle grazie di Berlusconi, l'ha combinata qualcuna, Rotondi? Che è successo là? È il ministro della difesa del governo ombra, sì, si vede che vogliono togliere la fiducia al governo. Ma al di là di questo, perché la stanno un po' emarginando? Insomma, lei perché è scontento di questa roba? Perché è finito in Serie B in questo comitato di presidenza? Ma no, perché... ma guardi, ma a prescindere. Non conta un cazzo, diciamo la verità, questo comitato di presidenza non conta nulla. A me non me ne frega niente dell'ufficio di presidenza, c'eravamo pure nel PDL, sapete com'è andata. Quello è un grande fratello che ogni tanto se ne va uno, esce Fini, poi esce la Russa... Poi esce Alfano, e fratello. Quindi adesso magari tocca a me, boh, che ne so. Ma non cos'è un grande fratello? Il partito? Stati, il partito? 20 anni fa, proprio il 27 marzo. Vabbè, che succede? Berlusconi conquistava l'Italia. E allora? Nessuno quella sera poteva pensare che Berlusconi vincesse e tenesse il punto per allora? 20 anni. Dov'è la criticità? Che fin da subito si disse... Però non torniamo indietro. Organizzerà un partito strutturato, forte. Alla fine, se l'avesse fatto, Berlusconi oggi avrebbe il 50%, perché avrebbe intercettato una crisi strutturale della sinistra. Bisogna vedere. Il punto limite è che stiamo ancora a parlare di un partito in cui gli organi si nominano, in cui chi c'è uditore, chi vota, chi non vota. Cerchi magici, chi grida, discussione che non avviene negli organi ma sui giornali. Ma lei certo si stupisce, punto... lei si stupisce, Rotondi, di no, questo? No, voglio dire, è un... Ma perché non esce allora? Perché non se ne va da Forza Italia? Ma non me ne vado perché io voglio bene a Berlusconi, lo considero un perseguitato politico. E poi ma ormai è finita, di diciamo la verità, ormai è finita. Rotondi è finita ormai. Ho capito, ma non si è mica berlusconiani solo quando Silvio ti porta al governo, no? Anche degli ultimi pure quando ti becchi tutto il viale del tramonto e te lo fai con allegria, porti la croce e canti. Anche negli ultimi giorni di Salò, lei dice, certo, è chiaro. Siamo certo, adesso dobbiamo percorrere il viale del tramonto, certo. Che come insegnava Andreotti può essere dolce e lunghissimo. Dolce, lunghissimo. Siamo agli ultimi giorni di Salò e lui dice giustamente, non è che divento improvvisamente americano con la K, rimango fedele... alla patria, questo è. Ecco, sì, io penso che nella vita ci voglia anche un po' di coerenza. Però scusi, Rotondi, in questa fase mi sta dando qualche dispiacere, però io non dimentico che mi ha nominato ministro della Repubblica, che per un uomo politico è la maggiore soddisfazione. Però questi organi che ha nominato, questi organi non anche... dimentico che con una legge elettorale che nomina, io sono stato eletto con le preferenze. Ma no, lei è triste, diciamo, c'è una certa però tristezza. Voglio dire, quando c'era da nominarmi mi ha nominato. E allora a prescindere dal fatto che adesso prende una strada che non mi convince, io non lo abbandono. Ma ho capito, ma la strada che non la convince perché? Perché ormai è... Ma cioè... perché fa casino con tutti, viva Dio, alla fine uno... Pasticcione. Abbiamo fatto delle scissioni, quella di Fini se l'è cercata Fini, Alfano si è abbracciato a Letta, poi a un certo punto hanno fatto uno scambio di coppie e si è trovato abbracciato con Renzi, va tutto bene. Però fare casino pure in Forza Italia è troppo, ecco. Ma ho capito, ma è colpa sua che ha fatto casino in Forza Italia? Sì, è un po' sì, perché non è mica colpa del cerchio magico, si rompe un po' le scatole di parlare con tutti e a un certo punto... cominciano le intermittenze, no? Ogni tanto a Castello si alza il ponte levatoio. C'è un pasticcione. E buonanotte. È un po' un pasticcione alle volte. Vabbè, ma ha fatto tante cose importanti per il paese. Che tutto sommato gliele perdoniamo queste cose, no? Vabbè, comunque questo comitato che ha creato questi organi non contano nulla, diciamo la verità. Vabbè, ma alla fine conta lui, noi gli vogliamo bene, gli siamo vicini lei in questo vuole momento e saremo sempre. Ma alla fine si sposa, secondo lei? Si sposa, secondo lei, o no? Ma chi se ne frega? Io ci ho pensato tanto io a lungo a sposarmi, mica mi metto a consigliare agli altri. Va bene, giornale radio, grazie. La Zanzara. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. A noi proprio non ce ne frega assolutamente nulla, caro Parenzo, come dice Feltri, assolutamente nulla. E devo dire la verità che trovo non abbiamo abbiamo valori. No, trovo incredibile, trovo incredibile che ci siano dei magistrati che pensino ad incriminare il signor Sallusti. Signor Sallusti, direttore del giornale, per quella cosa perché del secondo i suddetti magistrati avrebbe diffamato i genitori di Carlo Giuliani. Te lo ricordi Carlo Giuliani? Carlo Giuliani come? Quel ragazzo che era che con è morto, poi. È morto, certo, perché gli ha sparato un carabiniere, però prima che partisse i colpi era lì col passamontagna e con l'estintore assediato. Cioè non era proprio non era proprio San Francesco quel signore, no. Non era San Francesco, però è morto. Non era un pacifista di ferro. Questo però è morto. Sallusti cosa ha detto? Però verrà giudicato a giugno per diffamazione aggravata nei confronti dei genitori di Giuliani, ucciso a Genova nel 2001, come sappiamo. Cosa disse Sallusti durante una puntata, credo, di Matrix, ottobre 2011, dicendo semplicemente una cosa, che hanno fatto bene a sparare a Giuliani. Ecco, questo non mi credo pare, questo mi pare abbia detto una follia. Questo mi pare francamente non solo eccessivo, ma se non altro dirò una cosa che la farà innervosissima, di grandissimo cattivo gusto. Oh mamma mia, oh mamma mia, il cattivo gusto, sì, adesso c'è un morto. Il cattivo gusto sotto processo, il cattivo gusto. Perché c'è un morto. Infatti io no, sentiamo no, sul processo sentiamo Sallusti all'epoca. Questa frase è sotto processo, mettono sotto processo Sallusti per questa frase. Appare che Sallusti la settimana prossima potrebbe cadere da direttore del giornale, dicono, Beh, cadere. Non è che cade, non è un'istituzione. Beh, in questo caso sarebbe una caduta. Non è un'istituzione. Sentiamo. Lo fanno dimettere. Sallusti. È diverso. Chi ha fatto le violenze sabato durante il corteo e contro le persone che ha aggredito, contro le macchine che ha bruciato, tra cui una di un compagno di Rifondazione, ma è contro quel movimento che invece per poter crescere ha bisogno di poter crescere non allora nella violenza, perché intesti le aule a Carlo Giuliani? Ma per favore, intesti le aule a Carlo Giuliani? Sallusti, ma lo capisci l'italiano? E ti ho capisco. Detto che quello era un corteo aggredito. Noi siamo quello per fare aveva delle una manifestazioni spranga, un noi eravamo e siamo aveva per fare delle manifestazioni pacifiche e se tu avessi ascoltato gli hanno e sparato, se tu avessi ascoltato lo studente ti hanno fatto bene, ha fatto bene Sallusti, ha detto che ha fatto bene quello sei un terrorista, sei un teppista Sallusti, ha fatto bene, sei veramente Sallusti, uno che lavora per provocare la gente, tu semini odio e veramente prima te ne vai meglio è. Sallusti sotto processo per avere detto che hanno fatto bene a sparare a Giuliani. Sì, è come dire. Sì, ripetilo, di cattivo gusto. Vabbè, questa cosa vale a dire all'Accademia della Crusca. Ma no, ma questo è una questione di buon senso anche, ma, no? TG3 titoli, dai. TG3 titoli da Zanzara 800240024. Siamo qui, Chiamate. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. "50 minuti di incontro tra il presidente americano e il Papa, Obama Francesco, è meraviglioso incontrarla, al Quirinale la colazione con Napolitano. Ho fiducia nelle riforme italiane per uscire dalla crisi, dice Obama, in Europa spese militari irriducibili, poi la visita privata al Colosseo. Il presidente Renzi, non abbiamo alibi, ora l'Italia deve cambiare, l'Europa ha bisogno di riforme ma anche di crescita, sostegno americano nel caso dei Marò. In commissione alla Camera il decreto lavoro, la minoranza PD annuncia battaglia, il provvedimento così com'è invotabile, convoca il ministro Poletti. Stipati sui vagoni del Velletri Roma, già soprannominato Freccia Nera, continua il viaggio del TG3 con i pendolari. Moretti promette 3 miliardi per il trasporto locale. L'acqua contaminata della discarica della Montè di Zona in Abruzzo. La denuncia delle associazioni. La regione sapeva dal 2004. I veleni finiscono in mare ancora oggi. Aumenta il numero di esecuzioni capitali nel mondo, il 15% in più nel 2013 rispetto all'anno precedente, secondo i dati di Amnesty International. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Oh, caro Parenzo, ti pare normale che il presidente della Camera Boldrini stia brigando, facendo anche dei comunicati ufficiali, perché non gli sta bene il metodo di raccolta di firme con che limita e comunque mette in difficoltà la lista Tsipras, quella di sinistra, di estrema sinistra direi io, che si candida per un'altra Europa? Cioè dai, su, cioè, la raccolta di firme, per carità, è una mezza buffonata. Io ho firmato, infatti, a che Tsipras possa presentarsi, sì, alle elezioni. Ma ti pare normale che il presidente no, della Camera stia lì a brigare? Dai, no, su. Non mi sembra normale, dai. Deve fare il presidente della Camera, farlo un pochettino meglio rispetto a come sta l'ho là fatto a brigare, dai. Fino a oggi, e non è richiesta la sua. Pare che la signora Pascale non voglia che si candidi una signorina molto carina che è soprannominata Miss Folletto. Beh, sì, certo. Miss Folletto, certo. Miss Folletto, che... perché era la venditrice delle aspirapolveri. Sì, pare che ne vendesse un sacco, come Berlusconi agli inizi, no? Che prendeva le spazzole, sì, e poi da lì creò la Standa, ideò la questa Standa, signora, sì. Damian. A un certo punto, in un'intervista 2 anni fa, dice: io volevo di più, con Folletto ho scoperto l'America. Beh, vabbè, sai. Però io non ero soddisfatta di quello che facevo, perché volevo dare ancora di più, cercavo qualcosa di meritocratico. Quando ho trovato l'azienda Forwerk Folletto, che è un'azienda meritocratica, dove ti paga in base a quello che tu fai, io ho scoperto l'America. Anna Damian, respinta. Ma questo Pascale è sbagliato, scusa, ma perché la Minetti in passato sì? E invece questa eccellenza italiana no. Adesso questo è un talento italiano. Non è italiana, non è italiana. Ma non c'è di italiano. Come, ma tant'è che dice che non è cittadina italiana. Vedi che gli immigrati, bisogna dirlo alla Lega allora. Vedi che l'immigrazione buona che c'è nel nostro paese è moldava. Miss Folletto moldava. Diglielo, cosa diceva sui moldavi il signor tuo amico di Radio Padania, quel pontificatore? Cosa diceva sui moldavi? Che ne so. Ti ricordi? Rimandate da Milano l'audio di quello che dicevano a Radio Padania sulle donne moldave. Cercatelo per cortesia. Antonio Razzi, show alla Zanzara ieri sera. Berlusconi un divo, come Cristo fa i miracoli. Razzi arriva, Berlusconi è un, il cioccolato con un divo, un santo, un divo, Cristo, un divo. Come Cristo. Ma insomma, sì, è un uomo come eccezionale, cioè, purtroppo ce n'è solo uno, purtroppo. Cioè, no, vuol dire Cristo, cioè, nel senso, può essere paragonato anche a Cristo come importanza. Veramente può essere paragonato, perché qualsiasi cosa che tocca lui e fa i miracoli. Medicina, niente sciroppo. Beh, ma in Europa chi volete mandare? Le racchie? Che tormento questo bruciore. Abbiamo una rappresentanza in Europa. Ma mica uno vota perché è bella, però. Ma scusami, però, adesso lasciamo perdere. Ma mica si vota uno perché è bella. In Europa bisogna votare qualcuno che Che ci vuoi mandare tutte le racchie lì in Europa? Facciamo vedere che ci abbiamo tutte. Quelle del PD sono più racchie. Oh, scusate, quelle del PD sono più racchie, o no? L'espressione, ma almeno ci abbiamo una bella e buona, facciamolo stare in Europa. Poi diceva: tu lo conosci il direttore del Corriere della Sera? Ma no, io non so chi sia, conosco solo Sallusti come direttore. Razzi numero uno. Il nome del direttore del Sole 24 Ore, se lo ricorda? Il nome almeno del direttore del genere. Guarda, io conosco solo Sallusti, il direttore del giornale. Solo Sallusti. Basta. Il Corriere della Sera. Il Corriere, da chi è diretto il Corriere? Come si chiama? Ferru? No, non è lui. Lo so, però adesso non me lo ricordo. Riccardo da Firenze, buonasera Riccardo. Buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Senta, io come ho detto appunto alla signorina che mi ha chiamato, volevo chiedere il motivo per cui non la sento tutti i giorni, perché sì, per motivi di lavoro non riesco. Vabbè, allora? Però volevo capire il motivo per cui lei ha sempre un accentuato livore nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio. Consiglio Renzi. Chi? Io Livore. Io faccio il conduttore radiofonico e il potere, di solito, il potere bisogna trovare sempre le magagne del potere, si ricordi? No, sempre. Ho capito, a me non me ne frega niente, né di Renzi né di qualcun altro. Non me ne può fregare di meno. Quando c'è qualcosa che non mi sta bene la dico, punto e basta. Quando penso che uno faccia solo propaganda, che venda fumo, lo dico, secondo me. Però Cruciani, secondo me, per esempio, quest'idea di opporsi alle categorie, quest'idea di opporsi alle corporazioni, Confindustria, questo è buono. La CGIL è ottimo, bisogna vedere poi nella pratica, perché per esempio adesso questo decreto sul lavoro, che dovrebbe essere una cosa che fa incazzare i sindacati, già stanno premendo per modificarlo, già stanno premendo, perché dice che porta precariato, come se non ci fosse anche adesso, eccetera eccetera, già stanno premendo. Andiamo all'Odi da Ambrogio, sul sito di Beppe Grillo. Antonio Caserta, non mi rompere i coglioni adesso. Sono sul sito di Beppe Grillo, sto votando un sondaggio di cui poi ti darò contezza. Bene, qual è il sondaggio? No, te lo dico dopo, perché è interessante. Antonio da Caserta, il quesito. Dimmi. Pronto? Antò, e andiamo. Ah, mi sei? No, volevo parlare un po' con Cruciani. Volevo dire una cosa, che tutti gli amici di Cruciani adesso sono diventati tutti filoamericani. Fino a poco tempo fa bruciavano le bandiere americane. Per esempio, il nostro presidente della Repubblica non l'ha bruciata la bandiera, però voglio dire, non è adesso esattamente filoamericano, è filo americano da una vita, napolitano, su. Quasi filo americano. Poi ti voglio dire un'altra cosa a proposito di Razzi. Lo pigliate sempre per il culo, ma l'avete vista la trasmissione delle Iene, quando interrogavano ai big, ai parlamentari, che non sapevano né soglie di sbarramento, non sapevano un cazzo, compresi il vostro Bombassei. Certo. Che stava contro la nostro un cazzo, scusi, nostro di cosa? Cazzo, ma nostro chi? Nostro chi? Quanti li pigliate per il culo? L'abbiamo presi, non si preoccupi, l'abbiamo presi. Per il culo la gente che non sa parlare. Ma non pigliamo per il culo nessuno. Quando pigliamo per il culo, punto. Ma non ho capito qual è, perché dice nostro Bombassei? Nostro, io non abbiamo nessuno. No, lo intende perché... Nostro, che me ne frega. No, me. Lo intende perché è un ex dirigente. Pasquale, provincia di Lecco. E Cruciani? Dimmi. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma chi? A te. A me? E perché? Perché? Perché sì. Sei un testa di cazzo proprio. Perché? Aspetta, me lo dicevo, perché Pasquale? Non ho capito. No, perché così. Il atteggiamento non mi piace. Così. E chi se ne frega? Così. Chi perché se ne frega? Il atteggiamento non ci piace. Invece voglio dire una cosa al nanetto lì. Un attimo, aspetta sì. Un attimo, c'è che c'è la borsa, aspetta. Sono tempi duri, La Zanzara. Sei Cruciani? Mi dispiacerebbe andare a fare in culo, no? Le zanzare, Allora, cari amici, vi ricordo, per partecipare all'asta fate un'opera di bene. Noi non siamo qui per fare opere di bene, però questa volta ci proviamo insieme al senatore Razzi. Abbiamo messo all'asta un centinaio di magliette di Razzi con la mitica frase di Crozza che farei risentire, sì. Che farei risentire. Trovate quella buona. Questo è trovate giusto. Quella buona, la frase di Crozza. Eccola qui, parte, via. Non ci importa se il tuo sangue è rosso. Non c'è, ovviamente. Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Questo è al plurale. No, ma questo è però l'originale? Sì. Ah, ma questo è al plurale. Voglio la frase al singolare, quella che c'è scritta sulla maglietta. Puoi portarci in... Te lo dico, d'amico. Fateli i cazzi tuoi. Nuove zone da colpire. Molto bravi, regia, molto bravi. Questa è la frase. Questa frase che trovate su questa maglietta, la zanzara è radio24.it, c'è gente che ha offerto fino a 100 euro. Sì, fate un'opera diciamo di dovranno bene. I soldi. Vanno a un'associazione Onlus di Pescara. Vabbè, lasciamo perdere i dettagli. Persone disabili. Persone disabili, persone disabili, sì. Le associazioni esiste davvero. Garantiamo noi. Cioè, questo non dirlo perché no, meglio che non lo dico essere, come dire, no? Una cosa disincentivante. Dici? No. Beh, scusa. E chi garantisce? Eh? Confindustria, chi garantisce? Squinzi garantisce. Confindustria, d'accordo! Garantisce Squinzi! Ma la Nanni, ma perché non hai rimandato la Megera? Dai, mandatevi la Megera, Vediamo un po' di Vanna. D'accordo! Magliette di Razzi all'asta la zanzara! Garantisco io, Vanna, la rossa di Bologna, che te venga in canker! Mi ha detto anche, mi ha augurato il cancro anche, ho sentito. Sentiamo, voglio sentire un po' di Vanna, va. Vanna. Le zanzare, Io sono per il reinserimento del tu sei un falso, un assassino. Quello che avete fatto voi date a me dell'assassino. Beh, noi non abbiamo mai fatto un assassino da sempre il recupero dei criminali. Ci farei un pensiero. Comunque recuperare un pensiero. Come dice io sono convinto di decidere di tornare in carcere, ammazzo David. Ecco, no, qua. Bravo, su, ma bello, bravo. In questo momento. Ma che belle personcine. In questo momento sono sicura che molti la pensano come noi. Ma è vero o no? Mi segnalano. Mi segnalano che una volta. Fatto voi. Stai zitto un attimo. Allora, già annuncio una cosa, che ci sarà una specie di processo a David Parenzo domenica durante la trasmissione della signora D'Urso. La trasmissione della signora D'Urso. A me. Sì, ci sarà in studio, devi reagire con i vertici di Mediaset, eh. Ci sarà in studio la signora Nobile, Stefania Nobile, hanno chiesto già dei pezzi di questa trasmissione. La signora no, Stefania ma no, Nobile. Bisogna dire che la signora D'Urso mi aveva chiesto se volevo partecipare. Io non sapevo il tema della giornata. Solo che siccome sono a Parigi, allora capisci che tra Parigi e mettermi a discutere con la signora Nobile, con la signora. Però mi faccio rappresentare dalla signora D'Urso, mi faccio difendere dalla signora D'Urso. Grande prezzo! Ah, quindi la megera va lì? La megera, quale delle due megere? Sono due megere, la, no, la più giovane. Beh, sai, la ghianda non casca mai lontana dalla quercia. Allora, se la quercia è la megera Marchi, che tanto ha quel tono, ha un tono di è fastidio. Cioè, uno, adesso io ci ripensavo, no? Ma chi è che va a prendere? Quando il momento del caffè, l'ho già detto, è vero, però va ribadito. Quando va a prendere il caffè, uno vuole rilassarsi. C'è Cruciani, buonasera. Uno entra lì. Ma tu ti immagini il casino che c'è lì dentro di quella lì che c'è lì? È un caffè! Allora! Subito ve lo voglio dare questa volta 1,20 euro! Ma non parla così. Ma non è un'asta? Perché un caffè costa 0,90? Ma non parla. Però chissà, da lei sono sempre tutti lievitati i prezzi, no? Come nel ristorantino della signora che non gliel'abbiamo ricordato, perché hai chiuso anzitempo la trasmissione. Ma ci sarebbe da ricordare alla signora Nobile che il suo adorato fidanzato, evidentemente altra personcina per bene, Bergeri, si mettono anche insieme tra persone per bene in quella adorabile famigliola. C'era prima sto cazzo di Donascimento, poi la Marchi, poi la Nobile che si è messa con quest'altro adorabile ristoratore che ha fatto pagare un prezzo allucinante di 1000 euro a una coppia di sposini che volevano andare a festeggiare il fidanzamento. E questa adorabile coppia, adorabile coppia, che poi sai, le persone si attraggono, i simili si attraggono. Allora, poi una cosa tutta regolare, mi dice no, ma c'era nel menù, però questi qui offrivano antipastini da 2000, da 500, possiamo portare un antipastino? Tu, 500 euro del conto, 500 euro, perché si mettono insieme. Ho capito, perfetto. Calma. No, io guardo. Sono tempi duri. Calma. È con noi Paolo Del Debbio, mitico conduttore di Quinta Colonna. Guardate, vecchi amici miei. Come d'accordo, pure Del Debbio, d'accordo. Però lo fa bene, Lo fa, è perfetto. Ma invitala, Paolo. Io lo manderei in una trasmissione a farlo. Ma com'è che si sente basso? Si sente bene o si sente basso, Paolo? Dove stai? Mettiti più vicino. Io sento benissimo. Ah, allora, benissimo. Senti un attimo, tu sei della tendenza Feltri o della tendenza Liguori? Perché Feltri dice che esiste questo cerchio magico e Berlusconi è come Bossi. Il mitologico Paolo Liguori dice che non è vero niente. Non lo dice solo lui, ovviamente, per semplificare. Esiste questo cerchio magico intorno a Berlusconi o no? Tu che sei esperto. Non so se è magico, un cerchio c'è. Un cerchio c'è. Un cerchio di fuoco come quelli al circo. Ma c'è nel mezzo tutte le sere, sì. C'è però, dai, c'è. Ma c'è. Secondo me sì, un po' di cerchietto c'è, dai. Da chi è magari composto? Beh, da quelli che sappiamo, no? Le donne che stanno lì, io non le conosco, poi tra l'altro conosco poco, quindi non frequento. Ma non insomma, frequenti, non frequenti. Penso, no, io no. Non frequenti. Penso che abbiano un certo potere, mi pare di capire. Ti no? dispiace non frequentarlo, questo cerchio? No, io sto bene dove sono, preferisco stare in un quadrato, sì. Non puoi fare il consigliori. Molti ti attribuiscono la carica di consigliori, il ruolo di consigliori. No, io la faccio di Parenzo il consigliori, sì. Beh, però di Marina Berlusconi sei stato un po', no o no? Ma che consigliori? Non è vero. No, delle chiacchiere. Così, insomma, no. Comunque esiste un cerchio, esiste un piccolo cerchio. Ma secondo te Berlusconi è prigioniero di questo cerchio oppure ne è l'artefice? Scalpita? Ma sai, Berlusconi, io come lo conosco io, diciamo, i cerchi se li fa intorno, poi dopo li rompe, poi dopo se ne scoccia, eccetera. Sicché io non credo che se ne sia succube, questo no. Penso che sia un cerchio che gli fa caldo, insomma, ecco. Cioè? Che lo cocco, È una specie di sì, a volte ha usato queste cose un po' come la copertina di Snoopy, ecco, più che come, diciamo, dei... come dei board, come c'ha ad esempio Obama, no? Che c'ha un board intorno, che lo chiamano il cerchio magico, ecco. Però non è, non è la stessa cosa, Paolo, il board di Obama. No, non è la stessa cosa, ecco, volevo appunto farvi capire, se ci arrivate, che non è la stessa cosa, insomma. No, esatto, capiamo un ruolo, lui dice giustamente... No, ci arriviamo, fino a qua ci arriviamo, Paolo. Ti posso... Ma lo so, siete intelligentissimi, c'è poco no, da intelligentissimi fare, no, ogni tanto avete studiato, insomma. Ci perdiamo nelle nostre cose. Cioè, tu vuoi dire sostanzialmente che questo crepuscolo, perché di crepuscolo si tratta un po', di tramonto berlusconiano, sei consapevole anche tu, no? O no? Sì, ma insomma, diciamo, non è nella stagione migliore, ecco, diciamo così. E ora, dopodiché, io penso che proprio in questa stagione, invece, se il presidente Berlusconi si circondasse, a parte, voglio dire, i suoi affetti, ovviamente, legittimi, è tutto quel che vuole, ovviamente, ma si circondasse anche di un gruppo, magari, di persone che in qualche modo lo aiutano a fare qualche riflessione, io penso sarebbe il caso. Sarebbe meglio, un po' di cervelli, ci vorrebbero un po' di cervelli, cervelli. Non farebbero male in questa fase, perché è una fase delicata, lui i voti ce l'ha ancora in Italia, quindi forse converrebbe di... Un po' di cervelli come fu nel 94, no? Con i professori, con 94, Martino, insomma, Marzano. Poi alla fine sono quelli che fecero poi il programmone, che poi è stato per 20 anni... Non è stato fatto, ma insomma c'è sempre stato. Ma oggi mancano poi i cervelli. Un liberale come te, no? Un liberale come te, Paolo. Oggi lo voterebbe Berlusconi? Diciamo la verità, diciamola tutta. Diciamola tutta. Sì, dipende, perché, no? Dipende francamente che programma presentano e chi presentano per il programma. Perché cioè, sei tentato di votare Renzi o no? Io sì. Sei tentato. Sì. Sì, ma non tanto perché non credo in Berlusconi, non credo chi c'è intorno, capito? Cioè, è come quando la mia mamma, io uscivo, no, e diceva, Paolo, mi raccomando, stai attento, e qui e là, e sotto e sopra, no? Perché io vivevo in un quartiere molto popolare. E io dicevo, mamma, ma Dio santo, non ti fidi di me? E lei dice, no, io mi fido di te, e sono i tuoi amici che non mi fido, hai capito? Ecco, allora io a Berlusconi direi, non è che non mi fido di te, caro presidente, non mi fido di chi c'è intorno, è quello, e dunque... non il cerchio magico, diciamo chi? Che quello è un cerchio, cerchio... No, dico, le gente che si presenta, non... aspetto a vedere, insomma. Ma ti pare normale, Paolo, però, che la fidanzata di Berlusconi, in questo secondo me Feltri ha ragione, ti pare, al di là dei termini usati, eccetera, ti pare normale che la fidanzata di Berlusconi faccia interviste politiche su giornali peraltro di sinistra? Beh, io lo dico così, la butto lì, cioè, che dia giudizi, quello si deve candidare, quello no. Ma Berlusconi c'è una tradizione di compagne che facevano interviste sui giornali di sinistra, no? Però almeno sì, è vero, c'è una anche tradizione. La ex moglie su Repubblica, hai ragione del debito. Certo. Vi dimenticate dei particolari, mi meraviglio di voi. No, anzi, ha ragione del debito, peggio non ancora. Vi riconosco più. Insomma, no, ecco. No. Ma Cruciani è vecchio, perché ormai è 47 anni. Ormai ma sentito cosa dice? Cruciani ti dice che sei vecchio. Beh, certo, dice anziano, che sono sulla via del tramonto. Che perdo gol. Vabbè, sulla via del tramonto adesso. Cioè, spero sia un tramonto dorato, almeno 47 questo. Un tramonto anni, dorato vorrei. Vorrei. La prostata. 47 anni e potrebbe essere mio figlio, Cruciani. Ma che tuo figlio, siamo quasi. Però è vero, peggio quando fece l'intervista a Repubblica, perché lì era il giornale proprio nemico, no, dell'ingegnere. Adesso che ha fatto Quotidiano, poi scusa. Ma anche a Repubblica. Ognuno fa le interviste dove vuole. No, insomma, però l'intervista, lei che fa l'intervista, no? Cioè l'intervista politica, dai, è una roba assurda, dai. Uno ha ragione, questi qua di Forza Italia hanno ragione a incazzarsi o no? Sì, ma te ne rendi conto che questa signora è una che ha fondato quel movimento Silvio Cimanchi, Silvio Cimanchi, cioè, quindi viene fuori dalla politica, non è che viene fuori da... Vabbè, dai, bravo, non fare il diplomatico, da una confezione di non so, di sapone per dove si trovano i regalini, no? O le patatine, quindi si saranno infiammati su tematiche di tipo politico, insomma, un po' come la Kulishov e quell'altro. Andrebbero candidate noi qui Feltri, tra l'altro. Cosa ride Parenzo? Cosa ride per la citazione Parenzo? La citazione alta, colta. Dai, su, diciamo la verità, è assurdo che la fidanzata di Berlusconi parli di politica in un'intervista. Dai, diciamola tutta. Oh, sta a sentire Parenzo, Cruciani, se vuoi che ti dica che è assurdo, ti dico che è assurdo. No! Tre volte tu me lo dici, tre volte ti dico che secondo me certo, è una cosa un po' così, però viene fuori dalla politica. E la compagnia di Berlusconi avranno deciso e va bene così. Buonanotte, siamo tutti contenti. No, tutti contenti. Io no, a me non me ne frega niente. No, ma a te che ti frega, sì. Ma manco a te te ne frega niente, eh. No, no, infatti. Ma è vero che io ho letto oggi una frase di Berlusconi che avrebbe detto, sì, figuriamoci. Che avrebbe detto? Che la figlia è stronza come lui, però purtroppo che non la può candidare, Barbara Berlusconi, è vero? È iena, no, che è brava, è stronza come me, poi ha detto anzi stronza come la madre. Esatto. Ecco, sì, diciamole cosa mi stanno. Andrebbe però candidata Barbara o no, secondo te? Ma perché volete togliere, scusa, sta ragazza, no, la Barbara, sì, ora si sta dedicando al Milan. Sì. Perché vorreste strappare due braccia ai campi di calcio? Anche questo è vero. Beh, perché vogliamo strappare? Perché a un certo punto un nome Berlusconi per Forza Italia, per Berlusconi, un nome Berlusconi sulla scheda ci vuole, o no? Cioè, ma se quella ora sta al Milan e ci sta bene, lasciamocela, no? Ma no, pare che voglia candidarsi ed è Marina che non vuole. Scusa. È vero o no? Sta cosa. E questo non lo sapevo. Non lo sai, Oh, ma d'altra parte, ma Marina non vuole candidarsi, No, però non vuole che si candidi, che non si. Vabbè, l'ha detto sempre così. Secondo te è vero? Sì. Penso di sì, se l'ha detto penso sia vero, cioè che non abbia voglia, insomma. Ma tu che consiglio daresti tu a Marina Berlusconi, ai figli di Berlusconi, di candidarsi o di lasciar perdere perché finiscono male come il padre? Male nel senso con le inchieste, male. Dunque, Marina provò a uscire un secondo, ve lo ricordate? Venne fuori subito una serie di notizie, di magistratura che si stava muovendo, sì, eccetera, sì, eccetera. Quindi, insomma, io... fossi in loro starei dove sono, anche perché questo gruppo, diciamo, visto che c'è una tradizione familiare va avanti, forse è il caso di mandarla avanti, prima di fare due sfasci, cioè uno sfascio di là che, sì, ma non sfascio, e mandare a puttana il gruppo, allora è meglio tenere, intanto teniamo il cadreghino, insomma, no? E poi gli altri? La ghirba, come dice Confalonieri. Gli altri? Curiamo la ghirba. La ghirba, Gli altri? Gli altri? Gli altri non è il caso. Barbara sarebbe in grado o no, secondo te? Sarebbe, avrebbe la tempra, avrebbe il carisma, forse più degli altri, o no? Non lo so, perché poi il carisma politico non è il carisma che... Non è una cosa semplice, ragazzi, non è che una... Però brava, sto Toti in televisione non sfonda, c'è poco da fare, non sfonda in televisione sto Toti. Ma diciamocela. Ma Toti non ha neanche il compito di sfondare tante televisioni. Io non buca, dai, non buca, secondo me, non buca. Poi sta fissazione di farlo candidare all'Europeo per di prendere un sacco di voti, ma non è mica necessario. Beh, ma quanti sono i giornalisti prestati alla politica, ma scusami? No, ma quello lascia quanti perdere. Quanti sono stati? Guarda, anche dall'altra parte, il nostro amico Sassoli. Guarda che Toti comunque in televisione dice delle cose ragionevoli, insomma, guarda che è già tanto, No, no, ma io sono d'accordo, i giornalisti. Cioè, una certa ragionevolezza in quel mondo lì, no? E sì, anche infatti, aver letto, diciamo, qualche libro. Non fa male. Sì, ma in televisione, male, se tu alla tua trasmissione devi decidere di invitare la Santanchè o Toti, che c'entra in trasmissione? Chi inviti? Di la verità, chi inviti? E dai, su, la Ravetto. Sì, non lo vuoi dire. La via di mezzo, ha detto la via di mezzo. È un Paracelso, ecco, così detto Paracelso. Sì, perché Celso? Ah, Paracelso è importantissimo, è Paracelso. Un Paracelso. Paraguru, Paraguru. Paraguru, no, quello non esiste e quello chi lo dice finirà come ciò che ha detto. 30 secondi e torniamo, 30 secondi. Chi sono i pesce sega, Pensaci, Paolo, i pesce sega di Forza Italia che ha detto l'altro giorno. 30 secondi. Pubblicità. Che bacca, tu mi hai aperto un mondo, ora ho capito cos'è un fondo. So anche cos'è un investimento e farlo non è più un tormento. Io non ti lascerò mai più, mai più, ed investire non smetto più. Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così pop. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo. La Zanzara. La Zanzara che punge nel vivo. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Ma io voglio capire da Del Debbio se è credibile lui che è un po', cioè, conosce più di noi tutte le cose di Berlusconi. Sì, credibile cosa? Se è credibile la storia che la Pascale mette le mani addosso al presidente perché è gelosa, non vuole fare candidare quello, non vuole fare candidare l'altro. C'è intorno questa sorta di satrapia pascaliana o no? Ascolta, vi dico la verità. Io la signora Pascale l'ho vista una volta di sfuggita a Via Rovani, che dove Via Rovani, c'era un altro ufficio di Berlusconi, sì. Al luogo classico di Berlusconi dove ha fatto fine, invece eccetera. E quindi non la conosco, devo dirvi la verità. L'ho vista una volta sola e non lo so. Quel che dicono i giornali lo sapete meglio di me, cioè che c'è una certa gelosia, che hanno fatto fuori un po' di gente anche per gelosia. Io non lo so se sia vero. Certo, è un canone politico un po' strano, perché si va da poca parte a fare fuori la gente per gelosia, perché magari tieni un coglione che non è geloso, ma che non dà gelosia, magari è un cretino, quindi, o una cogliona, insomma, è uguale. Quindi non lo so, ecco. Beh, però è vero che alcuni, molte persone, tra cui Marinella, eccetera, la segretaria di Berlusconi, sono stati fatti fuori, questo non c'è dubbio, adesso è inutile che facciamo, ce la mettiamo troppo. Appunto, voglio dire, quindi se fosse quella, ad esempio, Marinella è una persona validissima, quindi non so con motivi per cui Marinella è la segretaria storica, lo diciamo ai vostri. Sì, la segretaria storica di Berlusconi. Grazie Marinella della spiegazione per gli ascoltatori. Quindi non lo so, perché se fosse per quello sarebbe una cappellata. Ma chi sono i pesce sega di Forza Italia? Caro Paolo, la vedo preparato, la vedo. Sì, anche vabbè. I pesci palla, I pesci sega sono quelli che non arrivano mai al dunque, capisci? Ho capito. Tipo chi? Tipo chi, Forza Italia? Chi sono? Non lo vuoi dire, i nomi non si fanno mai. No, è per carità. No, chi sono, per esempio? Vediamo un attimo un pesce sega. Vediamo un po', un pesce sega, vediamo un po'. Un pesce sega, chi non può lo so. Essere? Non li conosco più, sai, quelli di Forza Italia. Di Forza Italia, di Forza Italia non li conosci più. Diciamo che tu no, in questo momento Forza Italia proprio non la voti, diciamola tutta. Non è questo che non la voto, non aspetto a vedere, ma insomma quelle facce lì no, non le voglio più vedere. Cioè chi è che se vedi non... ho capito, ma povero Fitto, ci avrai i voti? Perché non deve essere... cioè se uno ha i voti, lo devi mettere in lista. Ma non si presenti Fitto, no? E perché non si deve presentare? Perché non lo vogliono neanche lui? Non lo so, se poi ci sono... dentro il partito c'è, per cui secondo te uno come Fitto si deve candidare? Ma insomma Fitto ha detto lasciatemi candidare, si guarda chi ha più voti, quindi quando uno dice così facciamo un ragionamento politico, no? Appunto. Poi però io mi preoccuperei di una cosa. Di cosa? Ecco, che è il punto, e cioè mettiamo che Fitto si candidi e prenda i voti, io vorrei andare a vedere su che idea li ha presi sti voti. Ma che vuoi che conti? Questa ragione qua. No, è vero. Quando dico idea, caro Cruciani, non mi riferisco a cose astratte, mi riferisco ha preso i voti perché c'ha una leadership, perché è riconosciuto come c'ha un popolo che lo vota, o perché? Anche povero Scajola, povero Scajola. A me interessa sapere perché, capito? Ma sì, vabbè, d'accordo, perché tu sei intellettuale, cioè, però. Ma no, perché ti interessa anche a te, non solo a me. Sì, ma a tutti. Scusa. Il povero Scajola che è stato assolto e si vuole ricandidare, perché non deve essere ricandidato secondo te? E si vede che lo ritengono che sia una faccia da mettere da parte, che ne so io. Tu lo metteresti da parte? Ma tu tanto mica fai. Ma io metterei da parte un po' tutti lì dentro. Però ha ragione, scusa. Mettere da parte tutti e ricominciare da capo. Siccome ci sono le preferenze, la scelta è molto politica. Su questo ha ragione Del Debbio. È l'unica elezione dove ad oggi ci sono le preferenze. Quindi uno scrive un nome. Che noia che siete. Comunque anche Sgarbi è stato fatto. Ma no, che noia. Ma cosa non fa il pirla? Cioè, scusa, Cruciani, quando sei vai a votare, no? A parte che non ci vai, ma se tu ci andassi. Sì. Guardi, io voto per chi fa più casino. Io voto per chi fa più casino, così almeno c'è materiale per lavorare, sennò altrimenti io sono. Oh, beh, e allora anch'io. Così bisogna fare, guarda. Non ci avevo mai pensato. Io alla fine faccio così. Io voglio più gente che fa così, almeno così abbiamo materiale con cui lavorare. Matti, gente che la spara grossa, e che me frega. Ma adesso tanto non cambia nulla. Chi voto io, chi non voto, che me frega. Io voglio gente che fa casino. Bello, bel senso civico. Gente che fa bordello, sì, non me ne fotte nulla. Chissà cosa gente pensano. Che fa bordello. Chissà, dalla mattina bello, alla sera. Bel senso civico. Gente che bravo. Fa battaglie. Bravo. Gente che fa, che la dice, che la spara grossa. Bello. Gente che dice come la pensa. Bel spesso senso civico. Così io lo mio unico, il mio bella unico lezione metodo. Di educazione civica dalla Zanzara. Bene, bravo, bravo. Ciao Paolo, presto. Ciao. Ti abbraccio. Ciao. Ciao Paolo, presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. La Zanzara. Non vi abbandonerò mai. Pasquale della provincia di Roma abbia fatto ricorso, no, contro la soluzione in primo grado, questo è una cosa cosa assolutamente normale. Io normale, resto ma assurdo che uno resto assolto che venga. Uno assolto in primo grado, sì, poi d'accordo. Ci debba essere il ricorso della procura. Uno assolto in primo legge. Grado lo sono... fece il centrodestra una volta, una delle poche cose buone che furono fatte, sono mi ricordo. Sono d'accordo. Fu poi credo cancellata dalla Corte Costituzionale, perché, sì, ma perché poi era inserita dentro con altre normette. Nulla, non è inserita comunque nulla. È giusto, questo è giusto. Uno assolto basta. basta, è finito. Perché bisogna continuare? Invece bisognerebbe dare il diritto a chi è condannato di poter ricorrere, questo certo. Assolutamente. Sì, su questo sono d'accordo. Uno può ricorrere, ma se lo Stato ti assolve ma non è che arrivano altri. È allucinante altri. Che un altro... Arrivano altri che ti giudicano. Pericolosamente d'accordo con lei. Allora, prima cosa questa. Seconda cosa, sempre sulla questione Scajola. Ora, secondo me c'è qualcos'altro. Cioè non sono solamente i sondaggi che Berlusconi fa vedere a Scajola o a qualcun altro che lo dice a Scajola dicendo gli italiani non hanno dimenticato la questione della casa. Lui è attento ai sondaggi. Perché questa cosa qui andrebbe contro tutti i principi di Berlusconi però. Perché dov'è la lotta ai magistrati? Che cerca di principi? Il garantismo. Vuole vincere, il no? garantismo. Te l'ha spiegato di cuore ieri. Va bene, d'accordo. Però c'è qualcosa in più. C'è qualcosa in più. Secondo me Berlusconi, a Berlusconi dà fastidio il fatto che Scajola sia stato assolto. Cioè perché dice... Io non sono stato assolto, tu sei stato assolto. E un po' gli rode il culo, per dirla in modo comprensibile. L'ho capita. Cioè, è scocciato da questa cosa qua. E ha un senso di fastidio. Ha un senso di fastidio per il fatto che lui ce l'ha fatta. E invece. Ma. Se Scajola ce l'ha fatta e lui invece è ancora sotto scacco dai magistrati. Gli dà fastidio. Pasquale, dai, provincia di Lecco, che vuoi? Ma altro che vai in onda la zanzara, tra una pubblicità e l'altra vai in onda la zanzara. Ma vabbè, allora dai, che volevi dire? Su Pasquale, dai. Posso dire una cosa sull'Ara Comi? Sì, puoi dire quello che vuoi sull'Ara Comi, dai. Io non ci uscirei mai con lei, neanche se mi pagavi la cena. E perché? Ma guardando la sua faccia, guardando il suo viso angelico, secondo me ha carezzato più cazzi che gatti. No, guardi, ma sei un maiale, sei un porco, una volgarità inaudita. Vergognati. Lei è di una volgarità inaudita. Lei è un cretino e di una volgarità inaudita. Io non sto zitto per niente perché lei è una persona volgare. Tu devi stare solo zitto, guarda. Lei è una persona schifosa e volgare. Lei è una brutta persona. Lei quando torna a casa si deve vergognare. Spero che non abbia parenti che l'hanno ascoltata. Che mandi a fanculo la gente e poi quando ce l'hai di fronte non vuol dire essere maleducati e volgari. Scusi, cosa c'entra Pasquale? Lei è volgare e maleducato. Volgare e maleducato. Pasquale, cosa c'entra questa cosa che lei ha visto la foto? Lei è un maniaco, lei è un porco, maleducato, un porco. La pianta, la Cruciani, che tu sei peggio di me, sei, dai. Ma veramente, guarda, Pasquale, guarda, bella compagnia. Tra me e te c'è un abisso, capito? Un abisso, capito? A Parenzo lo mando a fare in culo, sai perché? Perché mi ha dato del tuo parente e io mi dissocio da questa cosa. Siete, guardi, e ti ha dato? È una. Ha dato del tuo parente l'ultima volta che ci sono intervenuto. Dai, ma mi dissocio da questa Pasquale, cosa. Pasquale, sei veramente un personaggio depravato, sei un depravato, ecco, sei un depravato. No, è una persona volgare. Ma pianta, la Cruciani. Sei più cinico tu di non so che. Ma che cosa, c'entra? Ho visto la foto e allora. Ma che hai visto la foto? Fare puritano adesso, Cruciani, non rompere i coglioni, dai. Che hai visto la foto? Ho visto la foto. Ma che c'entra essere puritano? Cosa c'entra? Lei è maleducato e volgare. Sui morti scherzavi, hai scherzato sui morti, non te lo ricordi più. Guarda che io sono un tossicodipendente della zanzara, capito? Beh, ma questo che c'entra? Questo che c'entra? Vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Lei è una persona volgare. A me, Cruciani. No, ma Pasquale, ma guarda che non c'è problema. Io ti ringrazio per essere un patito della zanzara. Dopodiché io le cose le dico anche a chi è patito della zanzara, anche se tu ascolti sempre la zanzara. No, aspetta un attimo, posso dire l'ultima cosa? Dimmi. A quello che carica i podcast, devo dirgli una cosa. Canna, di farsela dopo. Cioè? Perché fa sempre un casino della Madonna. Su questo non c'è, su questo non c'è dubbio. Grazie Pasquale, no, hai ragione grazie, su questo. È un volgare. No, ma lascialo perdere, non può dire una cosa esatta, scusa. No. Ha detto una cosa giusta, lascialo parlare, no. Ma giusto, che fai? Ti scandalizzi, che fai? Ma no, mi fai una persona ha detto volgare. Una volgarità e l'abbiamo attaccato, è una persona punto. Brutta, volgare. Ma che vuol dire una persona brutta e volgare? Volgare. Pasquale, di qualcosa a Parenzo, dai. Non mi piace, è volgare. Stai zitto Parenzo, zitto. Stai zitto, perché tu Parenzo, proprio tu di sesso quando una parola viene detta a te, no, io non parlo di queste cose. Ma io faccio certo, ma io non sono volgare. Devi parlare però, Parenzo, cazzo. Io non sono come lei, sono diverso da lei per fortuna. Per parlare no. No, perché la persona volgare è brutta. No, invece io ti... Guarda, Parenzo, ascolta. Tu, quando ti rivolgono a te delle domande di sesso... Lei no, è una brutta persona. Cose, ma io certo... Le altre persone, non voglio... Io non parlo... Non sono una persona volgare, come lei. devi vergognare, Parenzo. Lei no, lei per quello, lei per quello che ha detto. E spero che i suoi parenti, e spero che i suoi parenti oggi non fossero. E spero che i tuoi parenti. Spero veramente che fai fare una figura alla tua famiglia, poverino, guarda. Ma guardati tu allo specchio. Che bella figura che fai fare. Ha parlato della tua figura. Famiglia. Ha parlato bella... della tua famiglia. Sì, che fa fare brutta figura, certo. Ma lecchino di chi? Io non sono una persona volgare come lei, oh. Ma lecchino di cose? Io non sono volgare come è lei. Posso essere critico, posso essere. Sto parlando di te, capito? Io sto parlando di te, non devi attaccare la mia famiglia. No, ha detto, che, ha detto che la tua famiglia dovrebbe vergognarsi per quello che hai detto. Beh, certo, se lo hanno ascoltato. Certo. Dai, dimmi cosa ho detto, Palenzo. Hai detto una cosa. Riascoltati, guarda. Su Lara Comi, hai detto una cosa, dai, guardando la foto, che cosa hai detto? No, ma faglielo ripetere almeno. Cruciani, dai, su. Cruciani, vedi anche te. Tante volte, cazzo, mi fai incazzare. Io ti stimo tantissimo. Ti ascolto, ripeto, la sera e la mattina in podcast, quando quel testo di cazzo riesce a caricarlo. Però, cazzo, tu sei stato più cinico di cose più assurde. E adesso mi viene a criticare me per una battuta. No, ma non è una battuta, non era una battuta, l'hai detta quasi seriamente, Pasquale, dai, su. Dai, ma che cazzo dici, Cruciani, era una battuta. Vabbè, no? Se era una battuta, va bene, anche d'accordo. Fosse una battuta era di cattivo gusto, però. Perché attaccava una persona, era una battuta di cattivo gusto. Non è una cosa che fa ridere, sei disgustoso. A me non fa ridere, ma non devo smettere proprio niente perché sei di cattivo gusto. Ragazzi, fermi tutti, mandiamo la pubblicità e poi un ospite. Pubblicità e un ospite, dai, forza. La zanzara. Ormai è tutto degradato, tutto degradato. Oh, grande ritorno alla zanzara, Parenzo. Beh, forza. Tu sai che esiste Forza Campania? Forza? Campania. Ma un movimento di geologi? No, di cos'è? Forza da Campania? Perché? No, che geologi? Forza Campania. Un movimento Campania. A favore dello smaltimento dei rifiuti? Cos'è? Ma no, Forza. Tu sai che c'è Forza Italia, no? Sì, esiste anche Forza Campania. Ma c'è Forza Veneto, Forza Lazio. No, però sono dissidenti. Forza, da Forza Umbria. Italia. Sono sempre. Perché non Forza Marche, ad esempio? Ma ci sarà anche quello. Però sono dissidenti da Forza Italia, anche se sono sempre dentro Forza Italia, però Forza Campania è formato da cosiddetti, sai, la politica è fatta anche di queste frasi, cosentiniani, cioè vicini al signor Cosentino, e signore, diciamo, delle tessere, molto berlusconiani, però non pascaliani, dove pascaliani non sta per Pascal. Sai Pascal, no? Pascal, non sta per Pascal. A me lo insegno. Ma Pascale, ma Pasquale. Forse in Forza Italia ci vorrebbe più Pascal. Più Pascal e meno Pascale. Me, che dice lei, senatore D'Anna? Salve, io come lei e come Pascal siamo dei liberali, quindi non posso che auspicarla questa cosa. Cioè, ci vorrebbe dentro Forza Italia più Pascal e meno Pascale, sì. O no? No, non lo so, io... Sono per gli accrescitivi, non per i diminutivi. Senta, però mi dica la verità, il signor Feltri l'altro giorno qui cosa alla... fa D'Anna adesso? Beh, grandissimo, senatore D'Anna l'altro giorno ha paragonato ha paragonato in aula oggi, credo. Ah no, ma è ancora in circolazione questo. Beh, c'è in circolazione, no, che in giro, gli arresti, ma non no, ho capito, ma, in circolazione. Ma chi è gli arresti? Io sono mica un ma manettaro. Quando dici in circolazione come dire in giro, modo di dire, no, come dire in giro. Senatore della Repubblica. Senatore della Repubblica, animo libero, spirito libero, il quale non è facile in questo periodo. Ho perso un po' di vista. Tutto qua. In questo periodo dice delle cose contro contro, insomma, di critica nei confronti della signora Pascale. Vincenzino D'Anna. E in questo momento, signor D'Anna, senatore D'Anna, è facile dire delle cose in disaccordo con la Pascale? Si vive bene dentro Forza Italia? Mi dica la verità. Ma io veda, non dico cose contro la Pascale, dico cose contro le ingerenze che qualche volta la signora Pascale... Fa nell'ambito della politica. Appunto, perché secondo lei che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe restare a fare solo la fidanzata, no, diciamo, la calzetta. Diventa un soggetto politico in Forza Italia, la rispettiamo, però come tutti i soggetti politici ovviamente si potrà esporre a contraddittori, a contestazioni. Ma perché non fa parte di Forza Italia, secondo lei? Il presidente Berlusconi mi ha garantito che questo non è. Io credo al presidente Berlusconi. Ma perché non è di Forza Italia? Senatore D'Anna, non è dentro Forza Italia, signora Pascale? Ha fatto politica anche lei? Sarà dentro Forza Italia, avrà una tessera di Forza Italia. Voglio no? dire... non è dentro Forza Italia come ci può essere qualsiasi iscritto, ma non è che vivere a Palazzo Grazioli significa acquisire delle benemerenze politiche. No, niente, cioè secondo lei bisogna evitare che faccia interviste con giornali, in particolare di no, sinistra? No, per l'amor del cielo, per quello che ci riguarda può fare quello che vuole. Sì, beh, ma, no, ma lei... Scusi, lei però non ha detto... Quello che dico io è che non può interferire nel dibattito politico. Beh, appunto, allora... Non si erga come Toti, dici io sono l'altro consigliere di Berlusconi, ne rispetteremo le opinioni. Quando non ci piacciono le criticheremo. Ha ragione, su questo Danna... Cioè lei dice faccia... Mi dispiace dar ragione a Danna, no, ma io gli sto facendo un danno forse in questo momento. No, ma io sono a favore di quello che dice Danna, assolutamente. Ha ragione Danna. Però deve andare fino in fondo, è sbagliato fare interviste politiche. No, ma è sbagliato. Fare interviste politiche, quando uno non ha un ruolo, giusto Danna? Lo credo bene. Cioè, essendo in particolare evidente la fidanzata. Beh, ma è la moglie del principe, però, eh? E lo so, però che c'entra? Noi non abbiamo un monarca, noi abbiamo un presidente. Beh, questo sa. È un monarca, su, dai. Una monarchia assoluta. Lei che è appassionato di storia, Danna. No, la monarchia assoluta è finita con Luigi XVI. E che cos'è Berlusconi, forse allora? Forse sta qui il problema. È un satrapo, su, è un satrapo, no, da questo punto di vista. La moglie del satrapo. Ma perché dice queste cose? No, ma un satrapo in senso... Un santo buono. È gossip, dice, no? È gossip. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, la Pascale, lei dice, non può intromettersi nelle nomine in particolare. No, io non dico che non possa. Se non assurge ad una dimensione assurge, di carattere politico, assurge. Non ricopre un ruolo, non è negli organigrammi politici, può esprimere tutte le opinioni che vuole, ma non credo che possa orientare le scelte, che possa sentirsi imbarazzata dalla presenza di qualcuno. E non dalla presenza di altri, cioè il fatto che parli ex cattedra, certo, mi lascia perplesso. Io oltre perplesso, insomma, è una cosa che la scoccia. Berlusconi direttamente, perché sono un uomo franco. Ma gliel'ha detto questa cosa? Sono leale a Berlusconi, nel senso che ho detto a lui quello che sto dicendo a lei e ne ho ricevuto una risposta chiara, che il ruolo e la funzione della signora Pascale non è politico, e io credo a quello che mi si dice. Bah, lei crede davvero? Ma scusi, ma fino all'altro giorno lei diceva che lei orientava la Pascale. Ma che la signora Pascale abbia orientato delle scelte sugli organigrammi, questo è vero. Io ho citato nella mia intervista al Corriere del Mezzogiorno un divarietto avvenuto tra lei e un senatore per convincere questo senatore. Ma è gravissimo questo, è gravissimo questo. Questo è, insomma. È gravissima questa cosa qua, o no? No, non è gravissima, non c'è niente di grave. L'importante è che il tutto avvenga come e dopo in politica, nell'ambito di ruoli e di responsabilità che ci sono chiari. Ma scusi un attimo, Danna, mi dica la verità, ma è vero questo fatto che se Berlusconi candida Cosentino prendete il 4% in meno? Io credo di no, perché vede, ritengo, e i fatti processuali mi danno ragione, con la ritrattazione dei pentiti, con il fatto che non è emerso uno straccio di prova. E dunque, secondo lei, il Cosentino farebbe prendere più voti o farebbe prendere più relato? Ma lasci perdere, questo poi lo appurirà la giustizia, ma che si dica che la presenza di Cosentino sia imbarazzante, mi sembra un voler maramaldeggiare nei confronti di un soggetto che tutto sommato non ha chiesto niente, sta pagando lo scotto delle amicizie politiche che ha avuto. Ma perché la Pascale non lo sopporta? Perché la Pascale? Il tribunale del riesame che dice che... Vabbè, ma lasciamo perdere. Perché mantiene una serie di collegamenti nell'ambito politico. Perché la Pascale non lo sopporta? Danna, se perché questo signore fa 8 mesi di carcere perché c'è un teorema che chi ha conoscenze nell'ambito di Forza Italia o di PDL diventa soggetto criminale, lasciamolo almeno perdere. Ma scusi un attimo, perché la Pascale ce l'ha con Cosentino? Me lo può spiegare? La vulgata è che non gli abbia consentito di fare l'assessore ai tempi la signora Pascale era lei ci crede? Provinciale. Ma lei ci crede? Sono cose che si dicono nei corridoi. No, ma lei che pensa? Poiché lei... non ho avuto mai il piacere di interessarmi di queste vicende. Lei che pensa invece? Sinceramente, fare da contraltare con una persona della quale io non ho conoscenza, non ho dimestichezza, non ho familiarità, non ho dimestichezza. Mi sembra strano. Forse l'unico elemento che mi contraddistingue è dire quello che molti pensano, però, e pochi hanno il coraggio di dire. Scusi, cioè, che senza un ruolo dovrebbe smettere di parlare di politica, questo è il punto. No, può parlare di politica quando vuole, però... Vabbè. Voglio dire, se quello che dice incide poi nei processi decisionali e incide, nelle scelte incide. Ci troviamo di fronte non un più ad un ambito politico nel quale le decisioni condivisibili o non condivisibili le fa il nostro leader e al quale tutti quanti Vabbè, però scusi Danna, ma la lealtà non sia ingenuo. Vanno in un ambito ed un contesto diverso, mi dica perché io dovrei accettare. Ah no, no, ma scusi Danna, ma non sia ingenuo. Non sia ingenuo, lei è un uomo di mondo, sa benissimo che la donna del capo, da che mondo è mondo, ha sempre avuto un ruolo principe. Guardi, anche in queste io non cose, un sempre. Capo. Parenzo, ma, mi ma, insomma, ma come no, ma, Danna, su. Ma sua moglie, se sua moglie le dicesse. Io non ho un capo. Ma come non ha un capo? Ma come non ha un capo? Ah sì, d'accordo, però il Berlusconi non è... Il capo, non ho capito. Però invece è anche bella questa cosa, è romantica questa cosa che la signora Pascale è ascoltata dall'uomo che ama. Ma è uguale, insomma, esiste sempre la moglie del leader che dà dei consigli. Politico, il capo c'è una bella differenza. D'accordo, ma esiste sempre da che mondo è mondo. I rapporti tra Berlusconi no, ma scusi lei sua moglie ma scusi adesso non per farmi i fatti suoi ma Danna mio Danna mio ma, me, ma lei sua quello che le dice sua moglie lei lo ascolta o no da, mi risponde fa come di vita ma mia moglie non entra nelle mie scelte politiche né giudica o censura ma come no, i rapporti ma se, politici la signora Danna quando le dirà Vincenzi scendere in politica e allora sarà abilitata a dire ciò che crede. Va bene, grazie Danna, a presto. Ma no, mi consente di dire una cosa. Il che vero dubbio cose, qual è? Il vero dubbio è se parla o dice cose perché altri gli dicono di dire. E la qualcosa sarebbe ancora più grave. Ah, chi cioè parla suocera perché non sciogliere da qui a qualche mese. No, ma ho capito, ma in questo caso chi parlerebbe per conto di chi, scusi, secondo lei? Non lo so, per conto di qualcuno potrebbe parlare. Potrebbe ma che ne so, mi dica esserci nell'entourage di Berlusconi qualcuno che ha deciso di spaccare la campagna, che ha deciso di... Ma secondo lei chi però? Non faccia, non dica delle frasi... Con senso territoriale. Ma non dica delle cose così. Beh, diciamo i soggetti che possono dare un poco fastidio. Diciamo. Ma secondo lei chi parla per conto di chi? Ma non lo so. Non lo so. Vabbè, lo scopriremo presto. Solo vivendo, lo scopriremo solo vivendo. Traffico. Comunque grazie, adesso grazie. Un po' paura. C'è il traffico, il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico, il traffico. No. No. Pubblicità. Con che banca da oggi puoi investire alla grande? Sapere di numeri sai non è più importante, perché adesso per te non c'è più solo un fondo, ma una selezione studiata, la più gialla del mondo. E allora muoviti ora, il mercato ti aspetta, rompi il tuo maialino e fai la scelta perfetta. Che banca! Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così rap. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Fogli informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo. Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso in uscita dalle grandi città, in particolare in uscita da Roma, dove si risente ancora di un incidente risolto sul raccordo anulare tra Centrale del Latte e la via Tuscolana in carreggiata interna. Code e rallentamenti per un incidente sulla 4 Venezia-Trieste e tra Sastino di Livenza e Portogruaro verso Trieste. Sulla 9 Lenate e Como Chiasso si è formata coda per un incidente tra Como Sud e Como Monte Olimpino in direzione Svizzera, mentre sull'autosole per lavori si incontrano code tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze e tra Modena e Reggio Emilia in direzione Milano. Altre code sulla 14 Adriatica verso Pescara per lavori tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio. Sempre sulla 14, attenzione, allagamenti per la pioggia sono segnalati al casello di Val Vibrata sia in entrata che in uscita in direzione di Pescara. È tutto, torniamo tra un'ora. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto. Altro che vai in onda la zanzara. Tra una città e l'altra vai in onda la zanzara. Beh, mamma questo mia, quanto mi massacrano. Beh, lo so, che dobbiamo fare. Intanto è passato il lodo fitto per le europee, per chi interessi questa cosa della candidatura di Forza Italia. Interessante, la gente che cazzo mi frega, quelli che stanno in giro adesso, camionisti, tassisti, ma pensi che gente normale si interessano intere? No, ma non dico i camionisti si interessano di chi è in lista di Forza Italia. Ma no, perché sono camionisti? Ma sei di una sei proprio di un classismo esasperato. Io voglio capire una cosa, siete interessati o no a sapere qual è la regola delle candidature di Forza Italia alle elezioni europee? I tassisti sono molto interessati perché ascoltano molto di politica. Allora tu adesso passerai sicuramente una di queste scimmie che è in lista, perché tanto ci sono delle scimmie. Scimmie sono quello in lista. Quello che ha chiamato. Sono scimmie in lista. Qualcuno sei una scimmia, certo. Bene, bene. Vuoi che lo ripeto? Comunque tu stai zitto. Quello di prima, quello che è, una, è una scimmia. Allora, e mi dispiace per le scimmie che stanno al bioparco di Roma. Ha fatto una battuta. È una persona volgare. Allora, ti dico solo una cosa, e ti ripeto e ti ricordo: la zanzara è radio24.it per l'asta. Per l'asta, per le magliette di Razzi. Però voglio dire alla mia amica Taggiasco Flavia di Matrix. Ecco, che non rompesse i coglioni, glielo vuoi dire apertamente? Glielo posso dire. Quando è in onda, non rompere i coglioni. Ma perché farmi cacciare da tutti i posti? Beh, scusa, mi abbia pazienza. Cara amica. Voglio dire alla amica Taggiasco, che messaggio ricevuto, ok, saremo là. Tutto a posto. Ecco, basta che non messaggio l'ho già detto. Mauro da Udine, allora è passato il lodo fitto, adesso finiamo questo ragionamento. I big si possono candidare, poi non si sa se tra i big c'è Scaiolo oppure no. Ma se eletti devono dimettersi dalle camere. Capito? Ma questo è giusto. Sì, a parte che si devono dimettere lo stesso, perché se uno non dovrebbero dire la correttezza vorrebbe che si dimettessero prima. Sì, si dimette di avere il paracadute. Questa qua è una cosa correttezza un po' vorrebbe. Comunque se eletti si devono dimettere. Perché dici credi talmente tanto in Europa. No, però è uguale. Credi talmente tanto all'Europa. È uguale perché c'è la promessa che si dimettono, cioè corrono per l'Europa. E se sono eletti comunque no, se no mantengono la sedia. Sì, se sono eletti però lasciano la camera. Questo è corretto perché qualcuno poi corre, prende i voti e lascia il posto a un altro. E lascia il posto a un altro. Invece in questo caso, che non è bello perché la gente ha votato lui, perché vuole lui. Ma non è così, Mauro Udine, Mauro. Ciao Giuseppe, sei peggio della gramigna. Mi hai infestato, non riesco a non ascoltarti la sera. Volevo solo mandare a fanculo Parenzo. Sì, ecco la scimmia, perché... prego. Ma che scimmia? Smettila. Sentiamo la scimmia. No, lo slavo comunista lì. Perché non possiamo slavo perché Parenzo. Ma è, su che cosa? Dimmi. Volevo mandare a fanculo perché non possiamo immolare un delinquente, sto parlando di Giuliani, che come possiamo immolare? Abbiamo intestato anche delle strade, delle vie con la quale stava con un estintore sta parlando di una persona che comunque è morta. Stiamo parlando di una persona che è morta. Ma cosa c'entra? Ma è evidente che non fosse un irenico quel signore lì. Ma stiamo parlando di una persona che è morta. Irenico, un uomo di pace vuol dire. Lasciami parlare, non parlarmi sopra. No, lei stiamo parlando di una persona che è morta. Fallo finire, Claudio. Allora no, cosa vuoi finire? Cosa deve finire? Dire che non possiamo che cosa possono pensare i ragazzi visto che questo qua l'abbiamo immolato a eroe di una piazza con tutta montagna e ma con l'estintore che stava detto che è uno dei due doveva morire, ma lei si rende conto della bestialità del questa derby è... di chi è giusto che sia morto, che bestialità? Siamo al derby, allora di un ragazzo, senta, la situazione. Per fortuna in piazza non c'era lei a gestire l'ordine pubblico. Non ti pare assurdo il fatto che il signor Sallusti sia stato che una scimmia telefoni per dire bene che è morto? Mi pare assurdo che ci sia un derby come fosse Roma-Lazio, Milan-Inter. È una discussione su chi ha ragione su un morto. Mi sembra allucinante questo. Questo è allucinante. Quello lì non è un morto. Mauro, grazie. Bar Sport sui morti. Bar Sport sui morti. Non è il Bar Sport. Perché si va in tribunale per una cosa del genere, dunque non è Bar Sport. Siccome si va in tribunale, almeno non la prendere come Bar Sport. Sallusti è stato rinviato a giudizio. Farà un processo, pare, o c'è una richiesta, insomma, è uguale. Per aver detto quella frase lì su Giuliani, capito? Davide provincia, dunque non è Bar Sport, evidentemente. Davide provincia di Milano. No, è Bar Sport invece. Davide, vai. Sì, buonasera. Allora, io vi faccio i complimenti per la trasmissione. Apprezzo moltissimo i conduttori. Però. Grazie. Ieri sera mi avete veramente deluso. Su che cosa? Che scusa. La Vanna Marchi e la famiglia non mi interessa proprio niente. mi siete caduti un pochettino, non avete, cioè è possibile, avete un potere, un ascolto esagerato, possibile che non avete nient'altro da dire. Obama è andato con Renzi. Cioè, ma non ho capito, non ho capito che cosa ci rimprovera, caro signore. Non ho capito bene. Allora devo io l'ascolto, vi ascolto ogni volta che è possibile, vi ascolto. E allora? Perché parlate di politica, perché voglio sentire gente il cui parere mi può interessare. Vabbè, ma lei ha un motivo. Che cos'è che ci rimprovera? Non ho capito. Ma chi se ne frega di cosa pensa la Vanna Marchi? Ho capito, è un personaggio che non ha mai parlato, non ha mai parlato da quando è uscito dal carcere. A noi interessa, e penso che interessa un sacco di gente, sapere. A me della Vanna Marchi, a te non interessa, a me interessava. Niente. Punto che venda i caffè lì al bar. Dopodiché sono stati 20 minuti, 25 minuti di radio, in 2 ore e mezzo di trasmissione. Non è che invitiamo Vanna Marchi ogni giorno. Dunque, che cosa vuole? Non ho capito. Bellissima radio, fate una bellissima radio. Avete tantissimi ascoltatori. Ieri sera non eravate niente di meglio che fammi sentire la Vanna Marchi. Vabbè, ho capito, ma se a lei non va di sentire la Vanna Marchi, spegne e punto e basta. Invece l'ha sentita, magari si è anche divertito, perché questa è la realtà, o no? Avete un potere più dei parlamentari. Ma dicono, vabbè, dicono, ma allora che vuol dire? E allora? Io dico, cazzo, aiutate sto paese di merda. Ma che aiutiamo? Ma non ce ne frega niente. A me non me ne frega niente di aiutare nessuno, aiutare il paese. Ma dico, ma siamo impazziti? Aiutare. Noi dobbiamo fare una trasmissione radiofonica, non aiutare il paese. Grazie, Davide. La zanzara. Ronda, ronda, ronda, se va bene, ronda. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Va bene, caro Dell'Utri, però voglio farvi ascoltare il solito Enrico Lucci top, Parenzo, è andato dagli indipendentisti veneti. L'ho visto. Io mi sono divertito, molti dicono... Sì, no, non era uno dei pezzi, secondo me è un premesso che è un genio sempre. Anche in questo caso è stato un non genio. Non fare il lecchino, poi ti attaccano anche a te. No! Questa volta faccio una grande critica, questa volta era meno... No. Meno mordente. No, perché... Dopodiché per me rimane fantastico. Ma come dice a questi indipendentisti veneti? Ma che state a scherzare? Che ci lasciate con le pezze al culo a noi di Roma, di Napoli? Debole. No, ma mi sembrava debole. Ma... Deboluccio. Questa cosa dell'indipendenza, sì, no? Sì. Cioè, state a scherzare, cioè non è che ma non scherza fatto nessuno qui. Ho capito, regà, ma se ve ne andate voi dall'Italia, ma chi la porta avanti la nazione? Se la vedrà la Lombardia. Sì, ma noi a Roma poi come famo? Cioè. Come famo a Roma? La qualcosa. A noi ci lasciate quei pezzi al culo, Faccio sì che con lo spray. Dice no raga, io non voglio andare a lavorare. Che immagine del Veneto, è stupendo. No, ma perché si dà un'immagine che il Veneto non è tutto, al contrario, così. È un'immagine di gente che vuole il lavoro mentre lui fa la parte del romano pancazzista. Però non è che parlano tutti così. Vabbè, ma non erano delle brutte persone quelle che stavano lì. Sentiamo, vai. Se non ti parli veneto, non capimo co ti parli. Che ci dividono. Ma che poi la foto. Oh, guarda, io sono di Roma. E ora? Vabbè. Anche ho fatto militare a Roma, mi andavo a puttane. Madonna che mignotte. A Cecchignola. Il fallimento. E quante te ne sei fatte? Una ventina. Della mia opera di persuasione. E te vuoi pure staccare da Roma? Te. Eh no? E capiamo che hanno altri qua adesso. Ce l'abbiamo anche noi adesso le mignotte. Numero uno. Quello è simpatico, sì. Dici, poi aspetta, a un certo punto dice chi mi versa i contributi per la pensione a me? Dice Lucci, mi dico Lucci. Ma poi dopo noi se dovremmo mettere a lavorare sarebbe... Anche noi stiamo lavorando, tutti devono lavorare. Una vera iattura. Ma poi i contributi per la pensione mia, chi mi versa? Cioè se voi ve ne andate ragazzi... E va a lavorare! Non è più un problema nostro. Non si fa così però. Va bene, allora pare che Berlusconi durante il consiglio di presidenza di Forza Italia abbia detto siccome Daniela Santanchè è indagata... È indagata, non riesce più a raccogliere i fondi per il partito. Fare fundraising. Perché gli imprenditori non gli danno i soldi. Lo avrebbe detto in maniera apparentemente, come dire, positiva nei confronti della Santanchè. In realtà non è proprio così, eh. Non è proprio così. Beh, qualcuno potrebbe dire che è il bue che era il cornuto all'asino. Beh, cioè, è indagata per una quella storia, quella là di Ponsellini, no? Beh, quella storia là, lo butti lì così. No, diciamo vabbè, che l'ex presidente della Banca Popolare di Milano avrebbe, secondo l'accusa, addirittura creato una sorta di banca. Non diciamo niente. Allora, è indagata per una vicenda che riguarda una banca parallela addirittura. Vabbè. Una specie di. No, va bene, perché va bene? No, ma non me ne frega niente di Ma non va bene, non è che va bene. Tutto Berlusconi va bene. Ha detto che siccome la Santanchè è indagata, gli imprenditori non le danno i soldi per il fidanzamento, hai capito? Questa è la sostanza, non me ne frega niente del perché indagate in questo momento. Su, dai, Laura da Roma. Zanzarone. Ciao Laura, dimmi. Ciao, allora sono un po' fuori argomento perché. Ma tu puoi dire quello che vuoi, non ci sono argomenti qui, non ci sono argomenti qui alla Zanzara, puoi parlare di quello che vuoi. Ascolta, dobbiamo tornare indietro su quell'intervento di quel tipo che è stato di una volgarità, di una maleducazione terribile. Allora, voglio dire questo, la trasmissione è carina, curiosa, movimentata, anche agitata, qualche parolaccetta non guasta, però ho la sensazione che tu, caro Zanzarone, ci inzuppi il pane, non solo, ma questa gente, anziché calmarla, tendi ad aizzarla ancora di più. Ma no, magari... ma che cosa strana, che scoperta bizzarra che lei ha fatto. Che scoperta che ho fatto. Che scoperta bizzarra. Ma guardi, lei non lo dice positivamente. Lei come psicologa potrebbe essere brava, cioè due in pagella. Vabbè, allora io ho detto, ma si può dire quello che uno pensa? Certo, brava, però io ti dico che in questi momenti, quando c'è l'intervento di una persona che va troppo fuori dalle righe, il mio consiglio se lo posso dare qual è? Quello di non aizzarlo troppo, un pochino, anche perché poi questi danno il peggio. Ah no, perché noi che cosa vogliamo? Meglio, non ho capito. Secondo me la trasmissione ci perde, vabbè, questo. No, lei dice giustamente è un rischio che si un corre. Un po' di bellezza alle volte. La bellezza. Grande bellezza, un po' di cose belle anche. Adesso no? Te la presento io la grande bellezza fra poco. Intanto c'è un signore che si chiama Settimio, il quale offre 150. È un ristiratore di Roma. Non lo so, magari è ristoratore. Offre 150 euro per la maglietta di Razzi e devo dire che bisogna fare un applauso perché questi soldi andranno in beneficenza. Vedi che facciamo anche opere di bene? Andranno in beneficenza. Ora, se lei, caro Settimio, non è serio e non mette questi 150 euro sul piatto, io vengo lì col forcone, la vengo a rincorrere, caro Settimio. Ciao Giuseppe. Amico mio, allora? Sì, ci sono e sono serio. Sono eccoci. Bravo. Qui. Come mai ti è venuto in mente questa cosa? Perché vuoi ardentemente la maglietta o perché vuoi anche contribuire ad una buona causa? Entrambe le cose, ma soprattutto la maglietta di Razzi è bravo, non perdere. Bravo. Allora rilancia questa nostra asta che ieri abbiamo fatto a livello radiofonico e che continua la Zanzaretta radio24.it anche su internet. Ragazzi, dillo tu, ragazzi, chiamate, mandate mail, offrite soldi per le magliette di Razzi, ce ne sono ancora diverse a disposizione. Perché i soldi andano in beneficenza. Vai, fai questo appello tu, vai. Ragazzi, mi raccomando, avete questa opportunità da non perdere. Chiamate, mandate email su Twitter, su qualsiasi cosa, contribuite a questa nobile causa e portatevi a casa questa maglietta unica e imperdibile. Ti abbraccio, grazie Settimio. Grazie. Il vino rallegra il cuore dell'uomo, il vino rallegra il cuore, il vino rallegra, è detto nel Salmo 104, ma attenzione perché il vino rallegra. Fratello Metallo, Cesare Bonizzi è con noi, ve lo ricordate? Buonasera! Un vero frate! Pace, bene, buonasera! Come sta? Un abbraccio, frate Metallo. Noi ci siamo conosciuti tanti anni fa. Stare abbastanza bene, però sono frate Cesare. Fratello Cesare. Metallo è morto. È morto. Come mai? Com'è che a un certo punto decise di far morire fratello Metallo? Perché il bigottismo, siccome è stupido, è perverso. Sì. Per esempio... i credenti non volevano che andassi al Gods of Metal e facessi metallo perché erano credenti. I non credenti non volevano che facessi metal perché erano non credenti. Quindi c'era proprio un bigottismo dentro il cervello loro, sì, che era sbagliato. E così sbagliato, per esempio, che l'impresario aveva garantito, non promesso, sì, garantito, sì, sì, 20 date al gruppo e non gliel'hanno fatto fare neanche una. Dunque lei si è ritirato da Fratello Metallo non per convinzione, voleva proseguire, ma perché c'era una specie di congiura. Ma no, io continuo a cantare, Frate Cesare continua a cantare. Ma scusi, lei una volta parlò del diavolo, cosa c'entra il diavolo? Sì. Dove si il diavolo non ha né le corna né la coda. Il diavolo è semplicemente la tentazione perversa che abbiamo dentro, che ci fa dividere da quello che veramente vogliamo fare. Ma scusi, ma perché il diavolo c'entrò qualcosa in ma occasione? Il diavolo mica aveva le corna. Il diavolo era che l'impresario, invece di far fare le serate al gruppo, non gliela fatte fare. E quelli non potevano guadagnare. Cioè il diavolo era l'impresario allora? No! E chi era? Era la stupidità dell'impresario che ha richiesto centinaia mail che arrivavano a me al giorno. Sì. Caro Metallo, guarda, in tre giorni e non ho fatto più dischi. Vabbè, io non ho capito ancora chi era sto diavolo, Frate Cesare. Il diavolo era la stupidità. Ah, la stupidità, la stupidità non aver fatto i dischi e venderli e guadagnarci i soldi lui. Vabbè. Comunque lei, tanto per capirci, no? Lei è stato il primo, diciamo, uomo di chiesa, sì, a approcciarsi alla musica e a diventare un uomo così popolare. No, non è vero. Perché la suora il famoso pseudo Frate Cionfoli. Ah, come no? Vabbè, non frate Cionfoli. Frate Cionfoli. Frate, non è mai stato Frate Cionfoli. Senta, è vero. Ma lei è a favore del matrimonio del matrimonio dei preti? Ah, pensavo di tra gay. Ma se la Chiesa ci chiede. Cioè, lei si sposerebbe? Ha mai avuto la tentazione di sposarsi? Si è mai innamorato? Io sono sposato con la vita. Ma ho capito, ma si è mai innamorato di qualcuno, di una donna? Ma certo, sempre, tutti i giorni mi innamoro io. No, ma di una donna. No, ma di una donna. Di una donna, di un uomo, di un bambino, di un nonno, quando mi metto lì e cerco di dialogare per amare e lasciarmi amare. Veda, lei non conosce il signor Cruciani. Quando il signor Cruciani chiede, il signor Cruciani è noto perché, diciamo, spesso si intrattiene con donne, spesso, ma non una. Non è così, non è così. Vabbè, frate deve ascolta, sapere. Ascolta, sì, dica, a Cruciani, sì, gli spiego come ho imparato a spiegare la castità. Ah, ecco, buono, ottimo. Ecco, io non credo che lei troverà terreno fertile lì. Però, con un mio compagno, timidissimo, intelligentissimo, era di fianco all'autista. Qua c'è una signorina che vorrebbe anche lei delle lezioni sulla castità. Non credo. Gliela spiego. Okay? Dica. Allora, questo pilota, quindi... non ho capito, Veronica, dimmi. Dicevo che io la pratico la castità, dunque ero curiosa di sapere come nell'epoca contemporanea è stata istituzionalizzata la cosa, cioè se siamo un po' demodè noi che pratichiamo ancora la castità. Attenti. O invece... Allora, Veronica Gentili, attrice, blogger sul Fatto Quotidiano, altre cose, sostiene di praticare la castità. Frate Cesare, come funziona la storia? Io non ci credo a questa storia qua, è una buffonata inventata sul momento. Perché ma guarda che la castità la praticano anche, per esempio, chi è sposato fa l'amore con il proprio coniuge. Beh, quello è lo castità, fa bene, è dolore. Per il coniuge è castità, Sì, allora Claudio, frate, cosa mi stava dicendo prima sulla castità? Non ho capito bene. Allora, volete che lo spiego o no? Sì, come no? Sì, per carità. Breve, allora, e circonciso, come ha detto il grillino ieri. Continuava a romperci le palpebre dicendoci che lui credeva in Dio, ma non nella Chiesa, ma non frequentava la Chiesa. Sì, sì. A un certo punto si rivolge al mio fratello, timidissimo ma intelligente, e gli dice: ma voi con le donne come la mettete? Quello, diventando paonazzo, gli si rivolge. Gli si voltò sul fronte e gli disse: noi con le donne siamo credenti ma non praticanti. Credenti ma non praticanti. Guardi che questo non vale, però non è riuscito, secondo me, a convincere. Vale, la bellezza. Allora, sì, secondo me vale. Vale? Vale, cioè vale. Uno può essere credente ma non praticante? Beh, certo che sì. Ma dai, su. Ma scherziamo. Credente ma io non capisco beh, che sì, tutte le persone che funzionano a compartimenti stagni queste cose non le possono contemplare. Però tutti quelli che hanno un'elasticità mentale che è poco maschile come peculiarità. Cioè, allora, tu sei credente ma non praticante, cioè ti piace? Ti piace? Sono sempre sull'io. Dimmi a parole tue. Cioè, tu sei credente, cioè ti piace? Ti piace certo, l'uomo? Certo. L'uomo? Sì. Non dico l'organo sessuale, ti l'uomo. Perché devi entrare nel merito? No. Sempre dai, esplicitare tutto lei. Allora, no, ti piace, però non praticante. Abbiamo detto questa cosa, non so per quanto la potrò sostenere senza che arrivino delle telefonate, per cui non allora, Veronica può... Gentili, sono casta. Sono casta. Illibata fino al matrimonio e siccome probabilmente non mi sposerò, finirò gattara, vabbè, sola e vergine. Cioè, scusa, da quant'è che... quante domande fai, fratello? Due mesi, tre mesi. C'è un uomo di chiesa però in ascolto. Scusi, frate, veramente, ma sono loro che sono molesti e mi mettono in queste situazioni. Sono loro. Frate Cesare, l'immagine di quella donna che donna e suora che si è messa a cantare in maniera così meravigliosa e saltata da tutto il mondo musicale nella trasmissione The Voice, che effetto le ha fatto? Sono contento perché se è stata accolta e ha cantato bene. Sì. Infatti voi non avrete sentito nessun commento sulla qualità del suo cantare. No, come anche ma quello. Ma solo anzi, sul fatto, è The Voice, stupefacente, quello, che è una suora, poverina. No, vabbè, si è commentato anche il suo modo di cantare, ha fatto delle lezioni, eccetera, non solo quello, frate. No, non è vero, ma lei dice mi aspetto una telefonata dal Papa, quello mi sembra un po' troppo, no? Fra, com'è che si chiama questa qua, suora Cristina? Ma ha telefonato tanti, potrebbe telefonare anche lei. Sì, non è sbagliato. Non è sbagliata come cosa, però. Senta, ma è vero che lei ha una canzone che si chiama Bacco? Sì. Com'è che fa? Ce la può cantare un attimo? Ce ne accenni l'inizio. Ce l'accenni, un piccolo accenno. Il vino rallegra il cuore dell'uomo. Il vino rallegra il cuore. Il vino rallegra. E io canto le cose bibliche. È detto nel Salmo 104, ma attenzione perché il vino rallegra, l'alcol ti inebria, continuando ed aumentando la dose, ti frega il fegato, ti fotte la vita, l'alcol è droga, morte! A domani 18:30, che volevi chiedere al prete? Spero che l'alcol è ottimismo artificiale. Lo rimandiamo a domani, grazie. E Cruciani, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Perché sei un testa di cazzo proprio. Perché il tuo atteggiamento non mi piace, così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È bella roba. Stanno a fare una bella figura. Radio 24. La passione si sente.